fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ristoradio Convento, siamo sempre qui ovviamente in diretta, la web radio del nostro locale Convento di Nonato del Garda. E come ci piace fare, come ci piace dire, questo è uno spazio aperto a tutti, soprattutto è uno spazio per far parlare, far conoscere meglio i veri protagonisti delle nostre serate, che sono i nostri festeggiati, le persone insomma che hanno scelto di dividere e condividere una serata di festa insieme a noi. Abbiamo qui un gruppo che si distingue anche in modo molto netto, cromaticamente parlando, tra l'altro, guarda un po', la nostra protagonista viene da Milano e loro sono vestite di rosso e di nero, e quindi direi che sono... Ah, non vuol dire nulla, vedi che lei alza le mani subito. Tra l'altro anche qui la nostra protagonista, non so se si è preparata prima, ma si confonde perfettamente con i colori del nostro studio, sì, quindi esatto. È perfettamente in tono, perfettamente. Ma loro avevano programmato tutto. Ah, c'erano, sì, si erano documentati. Brave, sì, avevano studiato. Allora, benvenuta intanto, come ti chiami? Anna. Anna, abbiamo detto da dove vieni, se vuoi essere da Milano. Più... Milano? No, abito in provincia, si chiama Vignate. Vignate, anche perché si sa che dire vengo da Milano può voler dire altri 500.000 paesi diversi, perché insomma si fa prima chiaramente a dire Milano, ma ci sono moltissimi paesi, è anche bello e giusto ricordarli ogni tanto, perché ci dimentichiamo della località, ecco, delle piccole località. Questa sera sei venuta a festeggiare con noi, abbiamo detto cosa? No, il mio addio nubilato. Il tuo addio nubilato, quando e con chi? Allora, il 3 maggio... Addio nubilato stasera. Sì, no, beh, chiaro, scusami. Sono andato oltre. Hai ragione. Devo puntualizzare, sono andato troppo oltre. Sì, quando sarà il matrimonio, ovviamente, chi sarà il fortunato? Allora, si chiama Francesco e ci sposiamo il 3 maggio. 3 maggio, quindi ci siamo quasi, ma nemmeno troppo. Comincia a sentire un po' di adrenalina, un po' di. Ancora no. No? Ma anche perché tu sei probabilmente abituata nella vita a gestire un po' di casini, quindi evidentemente sei anche meno perturbabile, si dice, vabbè, cioè meno, ti fai colpire meno, probabilmente da queste cose. Ma sei una a cui piace un po' organizzare, intanto le tue amiche se ne fregano ovviamente, ci fanno delle foto, non ci considerano, andiamo, ma hai ragione, io sono assolutamente d'accordo, andiamo avanti noi due, come se loro non esistessero, no, scherziamo. No, dicevo, ti piace organizzare, pianificare, perché tanti lo riducono a ci sposiamo, però cavolo, c'è anche del bello organizzare un matrimonio, no? La cerimonia, la festa, l'evento, gli inviti, i dettagli, cioè, boh, secondo me c'è anche del bello. È assolutamente bello, però secondo me stare troppo dietro un calendario diventa più un impegno che... In che senso? In che senso dietro al calendario? Nel senso che comunque va bene pianificare le scadenze, però comunque anche bisogna godersele queste scadenze. Sì, sono d'accordo. Se diventa troppo un obiettivo, poi non te lo godi neanche. Sì, una sorta di lavoro, esatto, di secondo lavoro. Perché poi è vero che ci sono anche, non dico fanatici, però persone che proprio vogliono tutto perfetto, quando poi in realtà ci sono anche alcune variabili che non si possono... Esatto, quel giorno. Soprattutto esatto. Quel giorno. Ma che poi... Esatto, ma anche perché ti carichi di tantissima energia, di tantissimo aspettativa, e poi magari se non è quella ti rovini tutta la giornata, esatto. Ed è un casino, E... tra l'altro stavo pensando che Milano, essendo una città probabilmente la più moderna d'Italia, come va con le figure dei wedding planner, insomma tutti coloro che... Voi ti sei affidata a qualcuno o hai fatto tutto da sola? Faccio un po' tutto da soli. No, però nel senso, ma è vero, a parte il costo, però è vero che funzionano molto in città? Sì, assolutamente sì. Che vanno veramente forte. Sì, assolutamente. E da quanto leggo, perché purtroppo leggo solo, non sono le uniche figure, cioè nel senso si sta ampliando veramente il discorso matrimonio, cioè proprio delle agenzie che se ne occupano. Sì. È un bel business. Esatto. Cavolo, è un bel business. Sono delle applicazioni online molto intelligenti che aiutano. Davvero? Planner. Tipo? No, questa non la so, vedi? Spiega. Vengo pagata se faccio così. Sì, prova, tu spara lì, poi nel caso chiedi diritto. Penso che tutte abbiano matrimonio.com, che è un'applicazione... Sì? Effettivamente ben fatta e utile. E ti serve per? È una sorta di database di fornitori e allo stesso tempo puoi creare una sorta di tua pagina personale andando a segnare tutte le varie tappe della preparazione, quindi no, fa entrambe le cose. No, hai devo visto? Dire che chi l'ha ideata è stato ben fatto centro. Esatto. Vedi, comunque scopriamo anche cose nuove, ci fa piacere. E tra l'altro facciamo anche giustamente, come dire, il nostro dovere, visto che abbiamo sentito anche altre voci, non sei sola, giustamente, se vuoi anche raccontarci chi ha condiviso con te questa serata, ce la vuoi presentare magari, dai, un po' la signora di casa. Silvia, che anche lei è prossima sposa. Ciao a tutti. Ah, ecco perché conosce matrimonio.com. Certo. Pensavo non fosse per interesse personale. No, anche io, piacere a tutti, buonanotte, buona mattina. Beh, anche buon tutto, perché tra l'altro sì, perché insomma anche questa intervista, in generale la radio va in replica, quindi può essere qualsiasi giorno della settimana, qualsiasi momento della giornata, quindi prendiamo un po' tutti, vai. Dopo la nostra protagonista Anna, quindi beh, siamo molto vicine. Quindi diciamo che condividiamo molte ansie. Ok, diciamo che se uscite a bere una birra, gli argomenti non è che siano molti. Da un anno si parla solo di questo. Lì, infatti, lì volevo arrivare. Dopo saranno i bambini. Esatto. Ed è finita qui la situazione. Vai, poi. Al resto di bambini abbiamo Mariana che non è ancora maggiorenne. Esatto. Ah no, pensavo in quel senso che. Ci sono già passato dalla fase e ho anche una vita. È la nostra mamma. Ed è quella, continuando il giro, che riceverà più chiamate di tutti, evidentemente, in questo periodo. Consigli, com'è andata, come hai fatto, ma anche tu, no? Ti stanno lasciando tranquilla? Sì, brave, no, vabbè, ma dire che comunque il tempo ne abbiamo avuto, quindi vabbè, tra una parlata e l'altra, una cosa e l'altra, qualche chiacchiera siamo riusciti anche a fare. Ma ci si guarda, fa parte del gioco, fa parte la del prima gioco. È serata per la nostra mamma dopo mesi in cui finalmente siete riusciti a. Ha visto che c'è della luce. Senso, ha visto. Bene, dai, fa piacere. Tra l'altro è la prima che si è sposata. Ah, ok. Quella che hai inaugurato. Ha inaugurato il tutto. Sì, ha dato via. L'abbiamo copiata. Poi? Qui abbiamo mia sorella Silvia. Ciao Silvia. Adesso mi sono accorto che forse è l'organizzatrice di questa serata, tra l'altro. Oh, sì. Bene, brava allora. No, mia sorella. No. Dipende, beh, insomma, un po' oneri e onori di chi mette in piedi, dai. No, è stata bravissima. Oh, vedi che l'hanno detto con convinzione. Ok, quindi sorella? Poi c'è Barbara. Ciao. Ok, ciao. La seconda che si è sposata. Ok. Infine poi c'è. Allora, ancora ci sono altre due. Caspita, sono tante stasera. Allora, Denise. E pensa che te ne sei accorta alle 3:59 di quante erano. Cioè, questo ti fa bello. Esatto. Allora, vi accontate solo adesso. Sai che tipo le maestre in gita? Allora c'è Alice, Luchino. Qualcuna l'abbiamo persa. Esatto. Infatti, lì volevo arrivare. Esatto. Abbandonato. Vabbè, comunque tornando ai nomi. Denise. Sì. La mia vecchia compagna di scuola. È vero. Esatto. E infine Roberta, che è l'ultima che si è sposata fino adesso. Ah, l'ultima. Sì, 5 mesi fa. Ah, bello. Quindi anche lei riceverà chiamate su chiamate. No. Dai. Per ora resiste. Anna se la cava benissimo da sola, però beh, ci fa piacere parlare sempre di tutti i dettagli. Ci sta, ma anche perché io lo ripeto e sottolineo ancora, è bello, cioè alla fine è divertente, quindi ci sta. È bello. Sì, ci sta. Diciamo che è come fare una sorta di grande evento che tocca però tanti punti, perché c'è il discorso ristorativo, intrattenimento, amministrativo, burocratico, chiesa e tutto il resto, quindi ci sono tante cose da tenere a mente. Una giornata per gli sposi, ma dedicata molto anche alla famiglia e agli amici, quindi almeno dal nostro punto di vista cerchi di fare tutto bene anche per certo. Gli altri. Beh, ti dirò di più, non chiaramente per denigrare, probabilmente gli sposi sono quelli che in quella giornata si divertono meno di tutti. È vero. O che la godono meno di tutti. Adesso, sposati. Adesso, non è esatto, adesso non cambiare idea, mi raccomando, Anna, no, non vorrei. Sì? Ma perché siamo stati bravi. Però solitamente. Però torno ad agganciarmi al discorso che faceva lei prima, dipende sempre da che lavoro fai prima, cioè da quanto ti carichi di aspettativa, di peso della giornata e di peso di quello che dovrebbe soprattutto essere, non quello che deve essere. Dipende forse tutto da quello. Se arrivi con la gioia che serve, ovviamente cercando di fare le cose per bene, come è giusto che sia, ma se arrivi con la gioia che serve, poi te la godi. Bene, allora Anna, vuoi dire qualcosa? Vuoi approfittare? Di solito parliamo anche delle passioni, degli hobby delle persone, ma in questo caso mi hai detto di tenermene lontano perché potrebbe insomma non ne parliamo. Dicevo, se hai un microfono davanti, se ti va, se vuoi dire qualcosa, se vuoi. Allora, io volevo ringraziare le mie amiche perché comunque hanno reso questa serata. E anche tua sorella. Perché sentivo escluso, già in tensione totale per le pagelle che le daranno domani. No, è stata bravissima. No, comunque volevo ringraziarle tutte quante, compresa la sorellina, ecco. E no, cioè, hanno fatto una festa veramente bellissima, inaspettata, comunque no, grazie, bello, grazie davvero. Meno male, siamo contente. Alle 11, però vabbè, sono arrivate alle 2. Beh, insomma, la vera protagonista si è fatta aspettare, dai. Esatto. Si è fatta aspettare. No, veramente. Grazie, davvero. Bene, ci fa piacere. Allora, grazie anche a voi, speriamo che davvero sia stata una serata anche da non dimenticare, che è questo che cerchiamo sempre di l'obiettivo che cerchiamo sempre di raggiungere. E allora in bocca al lupo per tutto, auguri ancora alla nostra Anna e grazie a voi per avercela portata qui. Buonanotte, alla prossima. Grazie a te, ciao.